Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. 800 24 00 24, la guerra del kebab e delle kebaberie. Un provvedimento della regione Lombardia, dopo un analogo provvedimento della città di Lucca, rende la vita difficile a chi ama entrare in una kebaberia, spendere 3-4 euro e farsi un pranzo con la carne di manzo arrosto al modo turco, balcanico, magrebino, insomma al modo islamico. Il kebab, quella carne che si taglia dal pezzo a giro arrosto verticale e che si può mangiare fuori, magari su una panchina, magari seduti su un muretto con un ombrellone di fortuna. Usi multiculturali che in tutte le città del mondo, in tutte le città occidentali, a Londra, a Parigi, a New York, sono, come dire, consentiti, anzi sono di abitudine comune ormai da molti anni, ma che da noi provocano reazioni anche forti. Abbiamo come ospiti Luca Zaia, ministro delle politiche agricole, Daniele Belotti, consigliere regionale della Lega Nord, uno dei promotori di questo provvedimento anti-kebab, che tende, diciamo, poi il provvedimento ha coinvolto anche il cono gelato, ma lo vedremo. Pier Francesco Maiorino, che invece è il capogruppo del PD al Comune di Milano, Partito Democratico, e che è animatore di una protesta disobbedienza di ieri. Ieri c'è stata la marcia del kebab o del cono gelato, insomma una specie di protesta simbolica contro questo provvedimento. E poi Carlo Panella, che ha una tesi speciale, giornalista ed esperto di questioni islamiche e dell'Islam in Occidente, che ha una tesi assolutamente speciale. Dice che c'è la filiera del kebab, cioè dietro al kebab c'è tutto un problema di integrazione urbana della immigrazione regolare, alla quale, dice, non pensa nessuno. È un suo articolo sul Libero. Io vorrei però cominciare citandovi lo Scoppio d'ira, per la sua anche bellezza letteraria, messo insieme da Pietrangelo Buttafuoco nel Foglio di oggi. Pietrangelo Buttafuoco detesta gli atteggiamenti occidentalisti e anti-islamici. Ecco come li detesta. Ma il fatto, scrive Buttafuoco, è che hanno preso la piazza e la strada per nemico. Già nessuno canta più per via, tutti inforcano gli iPod, nessuno si saluta incontrandosi, tutti digitano SMS, eppure questa si deve anche vedere. Nessuno più masticare un pezzo di conforto in bocca? La vera guerra è alla socialità, alla folla, alla confusione, a quella polifonia multicolore della teocrazia popolare della casba, dove nessuno è solo ma sempre in mezzo a tutti i suoi rutti, e al bicarbonato, proteine, latticini, vitamine e gusto. Tutto questo è il kebab, scrive Buttafuoco, così come la porchetta a Roma e i frutti di mare a Napoli, succhiati dalle vive vulve dei mitili, e così anche i fish and chips di celtica memoria, minutaglie unte, ghiotte, da leccarsi i baffi oltre che le dita. E poi cita, infine, dopo aver parlato di Palermo, di come si mangia bene, di come si consuma il cibo per la strada, a Palermo dove tutti, quando prendono pane e meusa, sono costretti alla camminata ad angolo retto, tutti chini in avanti, per non lordarsi di sublime grasso gocciolante, ma con un solo euro. Una volta anche con 500 lire, il palato accoglie pietanze degne di re. Che cosa non sono, infatti, le stigghiola? Una vera leccornia. Budella d'agnellino ripieni di cipollina, mollica di pane fritta e aglio. Un menù con hamburger da McDonald's costa 7 euro e si mangia direttamente nel vasino. Ed eccola qui, l'ultima guerra contro la micragneria occidentale e la volontà di vietare, di disintegrare, di cacciare, di impedire, la guerra del kebab. Bene, 800 24 00 24, la guerra del kebab. Cominciamo con il ministro Luca Zaia. Ministro, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti a quelli che ci ascoltano. In una vecchia intervista, vecchia si fa per dire, del gennaio di quest'anno, quando a Lucca presero un provvedimento analogo a quello preso adesso dalla regione Lombardia contro il kebab, lei diceva: ma io non mangio neanche l'ananas, figuriamoci se mangio il kebab. E non mangio l'ananas in difesa della gastronomia nazionale, del modo di alimentarsi che fa parte della mia cultura. Buttafuoco, che come ha visto è un difensore, diciamo, del kebab, invece chiama nei ristoranti, quando fa l'ordinazione, l'ananas ananasso, lo battezza italianisticamente in modo, diciamo, patriottico. Lei invece addirittura non lo mangia. Ha senso nel mondo moderno mi scusi la parola che è ormai una parolaccia, tanto se ne fa abuso, globalizzato, l'autarchia gastronomica? Beh, guardi, il ministro dell'agricoltura è di fatto l'amministratore delegato di questa grande azienda che è rappresentata da 1.700.000 aziende agricole. Difendere oltre 4.500 prodotti tipici ha un significato identitario, produttivo e quindi di valore. La nostra agricoltura fattura oltre 60 miliardi di euro, ma neanche una valenza ambientale, perché non ha senso far fare una media di 2.500 chilometri ai cibi per arrivare sul nostro tavolo. Questa è la verità. L'obiezione dei difensori del kebab è che in realtà la carne del kebab è una carne italianissima, si conoscono i fornitori, si sa tutto. Non c'è importazione da 2.500 chilometri di prodotti esotici, ma l'obiezione più importante che le voglio fare è questa: promuovere il prodotto di cui lei è l'amministratore delegato è un conto, promuoverlo culturalmente attraverso campagne di informazione, scrivendo sui giornali, nelle riviste specializzate, costruendo diciamo un clima confortevole per la produzione alimentare ed enogastronomica nazionale è un conto. Questo è naturalmente nell'interesse del paese, degli italiani, delle nostre appunto industrie, delle nostre attività artigianali. Insomma, abbiamo colonizzato il mondo con la pizza, figuriamoci se non possiamo e non dobbiamo. Però un conto è questo, un conto è difenderlo, tutelarlo con provvedimenti autarchici, cioè di legge, con proibizioni, interdizioni al prodotto degli altri. Ma vede, io vorrei riprendere questa sua riflessione, nel senso che in tempi non sospetti, qualche mese fa, io ho dato un'apertura rispetto al fatto che si usino prodotti della nostra agricoltura. Il problema è che non è assolutamente vero che il kebab viene da prodotto della nostra agricoltura, perché il kebab in molte occasioni arriva direttamente da quella catena internazionale che c'è, è surgelato e dopodiché viene direttamente cotto in quegli spiedi che noi tutti conosciamo, per cui non è vero che utilizzano carne nazionale. No, noi tutti conosciamo, non lo dica perché se no le faccio un Watergate. Lei ha dichiarato nell'intervista alla stampa: non ho mai mangiato in vita mia un kebab, è vero? Assolutamente no, ma conosciamo la storia del kebab, visto considerato certo. Che non è un mistero che per molti aspetti questa è una catena, una sorta di franchising a livello internazionale in molti casi. Senta Ministro, non ho capito bene però se lei ha voglia di rispondere a quell'altra parte della mia obiezione, cioè io capisco, adesso non è che stiamo qui a fare del liberismo, no, sì. però un conto è proteggere attraverso le politiche anche pubbliche che intervengono sul mercato o parallele al mercato. Un conto è fare una legge che dice, non so, sembra una cosa un po' della vecchia Italia di Mussolini, e io vi dico i baci Perugina sono la cioccolata migliore e quelli dovete mangiare. Cioè, come si fa? Capisce che voglio dire? Una legge, un provvedimento amministrativo che dice niente più che kebab per strada, non so, sembra un po' a capocchia. Questo rientra nelle competenze dei nostri amministratori e quindi se c'è chi ha fatto delle ordinanze in tal senso ci saranno pure delle motivazioni, immagino che poi le sentiremo, no? Certo. Da parte nostra possiamo dire che la difesa è una difesa che noi dobbiamo fare, dobbiamo pretendere da tutti, per primi ovviamente dai nostri produttori per passare poi ai turchi piuttosto che ai cinesi, che ci sia sicurezza alimentare e mi permetta ancora di sottolinearlo che si usino i prodotti della nostra agricoltura. Io questo l'ho detto anche durante il G8 agricolo e il ministro cinese comunque ha confermato che c'è questa volontà di andare verso questi ragionamenti. C'è la volontà di andare verso questi ragionamenti, quindi il kebab ma anche gli involtini primavera. In effetti Michele Brambilla in un articolo gustoso sul giornale ha scritto, dice vabbè cominciamo col kebab, però anche il McDonald's fa schifo e allora via il McDonald's. E poi vuol dire che l'ha mangiato se dice che fa schifo. Sì, noi sì, possiamo sì. Dire che le hamburger vengono prodotti in Italia e sono di vitelloni nazionali. Fra l'altro c'è una storia arcinota, per cui non spetta a me fare l'avvocato difensore. Sì, ma diciamo il pacchetto, no? Il pacchetto gastronomico è un pacchetto allogeno, certo è in parte vero, mi perdoni, perché abbiamo presentato non più tardi di 2 giorni fa la grande operazione fatta, che ha avuto un grande risalto, del parmigiano reggiano all'interno del panino. Adesso non vorrei che si trasformasse in pubblicità. No, e che Brambilla, vede, il punto non è adesso il confronto kebab McDonald's, ovviamente improponibile. Il punto è che lui dice, va bene, niente kebab, niente voltini primavera, niente McDonald's, ma allora i giapponesi devono imparare a cuocere il pesce, perché c'è la famosa battuta di certo. Mordecai Richler, dice a me il pesce piace cotto e il vino piace freddo. Invece i giapponesi mangiano il vino caldo, il sake e il pesce freddo, e lui non capiva questa cosa. Allora, uno critica le cucine diverse, no, dalle proprie, benissimo. Però dice poi, allora, quando uno avrà compiuto questa cosa, dice fuori dalle palle il kebab, fuori dalle palle gli americani, fuori dalle palle tutte e due, dice Brambilla, dice allora però poi, ma io non voglio neanche la cucina emiliana in Lombardia, non voglio la cucina di Pavia a Milano, non voglio la cucina della Bovisa nel quartiere Isola, perché le specificazioni, le diversità sono talmente tante che, insomma, un po' di... Come si dice il melting pot, no? Un po' di il crogiolo. La cucina è proprio quello, non è la contaminazione degli ingredienti. Ma lo è fino in fondo per certi aspetti. Io vengo da una regione, il Veneto, dove ovviamente si vanno a coniugare i pesci con l'uva sultanina. Però è altrettanto vero che qui facciamo un altro ragionamento, e le ripeto, rispetto all'origine e alla sicurezza alimentare, in molti casi questi due aspetti non sono assolutamente sicuri. Uva sultanina, lei ha praticamente introdotto un elemento islamico nella cucina veneta, lo vede? No, non l'ho introdotto io, l'ho introdotto la Repubblica Veneta, che appunto, ha mille anni di storia. Appunto dico, perché insomma... Però passando attraverso dei requisiti che sono quelli dell'origine sicura e ovviamente della sicurezza alimentare. Va bene, la ringrazio Ministro, lei ha le idee chiare come un funzionario asburgico, ha detto delle cose tutte precise e assolutamente incontestabili dal punto di vista del suo mestiere. La ringrazio molto, so che ci doveva lasciare e quindi la ringrazio. Ci vedremo magari in un'altra occasione per chiacchierare un po' delle politiche agricole e alimentari del nostro paese con più tempo a disposizione. Volentieri, grazie mille. Grazie, arrivederla. Passerei subito a Carlo Panella, che all'aeroporto sta per imbarcarsi per New York, ma ci ha promesso di rappresentarci, e poi naturalmente i protagonisti della trasmissione, Daniele Belotti, che ha introdotto questa norma, questo provvedimento, e Pierfrancesco Maiorino, che si oppone. Panella, che cos'è la filiera del kebab? Che vuol dire che intorno a una legge anti-kebab si può costruire una nuova politica per l'immigrazione regolare? Sembra una stravaganza. No, non bisogna fare la legge sul kebab, che ha delle venature razziste. Insomma, ieri ho sentito a Radio 24, a Radio Padania, sia il Bellotti che il Prosperini, e diceva una cosa ben diversa da Zaia. Insomma, qui non so, il Prosperini in particolare diceva che non, in Italia si mangia italiano, e se no camel via e se ne tornino nei loro deserti. Il problema è molto semplice, che la Lega, come spesso le accade, dà delle soluzioni molto sbagliate, al limite del razzismo, a dei problemi reali. Perché quello che è successo nelle città del nord, lo conosco benissimo Genova, è che dissennatamente i comuni hanno lasciato che si aprissero delle attività commerciali, via Sarpi a Milano con i cinesi è tipica, ma anche il centro storico di Genova, in cui accanto al kebab si è creato il negozio per spedire il denaro in patria, quello per telefonare, poi la macelleria islamica, e questi... Ma scusi, questo non è la modernità, il futuro, non è l'America, non è Little Italy, non è Chinatown. Little Italy non è il futuro, Little Italy è il passato, Little Italy si forma nell'Ottocento e oggi si sta sciogliendo, sì. Era un'altra forma di immigrazione di 200 anni fa. Oggi, se vogliamo, che non, il problema è che attorno al kebab si è creato il ghetto. Attorno al kebab si sono create proprio delle forme di resistenza dei paesi dentro i centri storici delle nostre città, dei paesi abitati da extracomunitari, in cui tra l'altro navigano perfettamente i clandestini, che impediscono la integrazione. Allora, se si facesse una sana e banale politica in cui si concedono tutte le licenze per i kebab e le attività di macellerie islamiche o indonesiane che si voglia, ma in maniera organizzata, in maniera organica, in maniera centralizzata, in modo da diluire nel territorio la presenza abitativa degli migranti. Ho capito. Sì, sì. Ma io... L'abnorme roba, sì, che adesso c'è a Torino. Io avevo letto con attenzione il suo articolo sul Libero su questa questione, però voglio dire, adesso noi forse in un futuro lontanissimo, tra qualche millennio, avremo una sorta di integrazione totale, no? Per cui ogni immigrato sarà un nucleo perfettamente integrato nella vita italiana, di famiglia regolare, eccetera, di lavoratori, pagano le tasse, avranno il diritto di voto, la cittadinanza, insomma, però qualcosa uno si porta sempre dietro quando migra. No, voglio dire, capisco la polemica contro il ghetto, contro la cattiva integrazione multiculturale e le sue retoriche, però scusi, qualcosa uno si porta dietro. Allora mi sembra che il kebab è la cosa meno grave, no? Meno pericolosa. Ma deve portarsela dietro. Il problema è di impedire che attorno al kebab si agglutinino tutte le altre attività commerciali tipiche di elementi di nazionalità di immigrati e si costruiscano delle little Italy che sono poi dei ghetti, che sono poi dei covi di clandestinità, che sono poi San Silvario, che sono poi Porta San Palazzo. Salvario, San Salvario. San Salvario, Porta Palazzo o Genova, il centro storico di Genova. Questo è il problema. Io quando lavoravo nell'immigrazione in Germania negli anni 70, certo che andavo nella gelateria Cortina o a mangiare gli spaghetti, ma prendevo la metropolitana e andavo insieme agli immigrati. Dovevano essere una sbobba gli spaghetti in Germania all'epoca sua? Dovevano essere una sbobba orrenda, no? Sì, abbastanza, erano fatti da italiani e guai a Dio se si toglievano agli immigrati italiani i loro spaghetti orrendi con i pomodori dalla Cina o la loro pizza. Però appunto il problema è semplicemente quello che i sindaci dovrebbero fare una sana politica insieme alle organizzazioni territoriali, eccetera, una sana politica di distribuzione nel territorio di questo tipo di attività commerciali, accompagnate da una politica abitativa e via dicendo. Se no, se si lotta solo contro il kebab. Sì, però non è che io posso avere il kebab qui e il negozio delle spezie a certo 50 chilometri. Certo che posso, ad Alba, città che come lei sa conosco benissimo, è stata... Beh, non sono tenuto a sapere tutte le cittadine che lei conosce, ad Alba il tartufo sicuramente. Allora, ad Alba è stato proibito, quando un signore ha chiesto di fare un aprire nel corso di Alba il secondo negozio di kebab, gli è stato detto di no. Che lo aprisse ma da un'altra parte della città, lui l'ha aperto dall'altra parte della città e questo ha impedito che si cominciasse a costruire attorno al kebab, che funziona come magnete, tutta quella rete di attività commerciali che poi portano attività, presenze abitative, che poi portano ghetto, che poi portano irritazione degli abitanti storici della zona, che poi portano la Lega a fare le sue proposte sbagliate. Va bene, senta Panella, la ringrazio, ma magari ci sentiamo anche dopo. 800 24 00 24, Daniele Belotti è al nostro microfono, consigliere regionale della Lega Nord, è lui che ha introdotto i provvedimenti che tendono a disincentivare un uso spregiudicato in strada, sociale, conviviale del kebab. Cos'è il kebab? Chiedono alcuni ascoltatori. È carne di manzo al girarrosto, tagliata, condita, speziata, diciamo all'orientale. Ce ne sono di vari tipi, ci sono anche vari nomi per il kebab. È quella roba che si taglia in negozi che sono praticamente in tanti angoli di strada nelle città italiane. Sentiamo insieme Belotti un momento, Stefano da Genova. Stefano. Pronto, buongiorno. Sì. Cioè, allora, volevo dire due cose. Oggi non siamo fortunati. L'altra telefonata è caduta, Stefano da Genova non si vede. Ivano da Modena. Buongiorno a tutti. Pronto? Sì, eccoci, ci sentiamo. Bene, no. Ho telefonato perché prima il ministro ha detto una cosa che mi ha fatto sobbalzare. Sì. Ha detto che in questi negozi bisognerebbe usare prodotti italiani. Sì. Ora io spero che in giro per il mondo i suoi colleghi siano un pochino più lungimiranti e illuminati, vorrei anche dire, perché ve li immaginate se nei ristoranti americani si imponesse l'uso del parmesan, della pasta di grano tenero, della salsa Alfredo, dell'olio di oliva fatto chissà dove con chissà che? Certo, cioè lei dice se ci fosse la reciprocità in tutto il mondo, prodotti nazionali per la ristorazione etnica e nei ristoranti italiani all'estero noi mangeremmo delle schifezze. Altro effettivamente che, sì, immagine che avrebbe l'Italia nel mondo. Certo, e sarebbe un danno per la nostra enogastronomia. Ha ragione Belotti. Allora, vede, gli ascoltatori, buongiorno Ivano, grazie. Gli ascoltatori alcuni sono dubitosi. Sì, però devo fare una premessa che ci sono tantissime imprecisioni in tutto quello che si è letto e sentito in questi giorni. Prego. Perché, la prego non... però non sia burocratico, adesso no, non ci stia no, a dire no, noi ce l'abbiamo con tutti gli artigiani, la sicurezza. No, assolutamente. Precisiamo subito, sì. Non è assolutamente vero, ma lo sottolineo 10 volte, che è vietato il consumo del buono gelato, del kebab, della pizza al trancio fuori dall'esercizio commerciale, fuori dal laboratorio artigianale. Quindi se un cittadino si vuole mangiare il suo kebab fuori dal mar, sul mare, alla fermata del tram, è liberissimo di farlo, Ma quello che sorprende in tutta sta vicenda è che è stata presa una interpretazione strumentale da parte del centro-sinistra in consiglio regionale, a cui faccio i complimenti perché è riuscita a sollevare un caso a livello nazionale sul niente. Quello che allora però scusi, ci dica cosa avete deciso con questo provvedimento? Noi abbiamo rafforzato un concetto già espresso dalla legge Bersani. Ricordiamo che stiamo parlando di laboratori artigianali, sì, quindi di esercizi che vendono il prodotto che fanno, sì, non di bar o pizzerie, sì, sì, non tradizionali, pizzerie da sport parliamo al limite. Sì, sì. Noi abbiamo rafforzato un concetto della legge Bersani che prevede che il laboratorio artigianale può, non può utilizzare degli arredi. Infatti nel laboratorio, nei kebab o nelle pizzerie da sport, voi non trovate i tavolini e le sedie. Trovate al massimo il bancone con lo sgabello. Sì. Non trovate nei comuni che applicano in modo rigoroso il decreto Bersani, la legge Bersani, i tavolini, gli ombrelloni, le sedie all'esterno, sì, li trovate nelle pizzerie. Sì, però queste sono piccolezze, mi scusi. No, mi dica che cosa avete fatto? Perché noi abbiamo, allora, è tutta un'invenzione che ce l'avete col kebab? No, noi abbiamo. No, voglio sapere se è un'invenzione, perché il ministro dell'agricoltura, che è leghista, ci ha detto che a lui il kebab gli fa schifo, che bisogna mangiare la cassola. Sicuramente anche a me fa schifo. Però allora ci spieghi che provvedimento avete fatto, non le panchine. Abbiamo vietato e fatto chiarezza, perché alcuni comuni applicavano in modo rigoroso questo aspetto degli arredi esterni, altri in modo più... Avete vietato le panchine fuori della kebaberia, d'accordo. Bravo, esatto. O gli arredi interni. Non il divieto di mangiare il panino o il kebab fuori dal locale, o peggio ancora il cono gelato, sì, ma nel modo più assoluto proprio. Va bene. Maiorino, allora, Maiorino, buongiorno. Il capogruppo del PD al Comune di Milano. Voi avete animato questa protesta, era una protesta contro il niente, perché l'Italia è sempre fatta così, che poi tutti negano, dicono no, non è vero, il discorso è un altro. Com'è la faccenda? Che vi siete mobilitati a fare se hanno semplicemente deciso che non si possono mettere le panchine nelle kebaberie? Ma a parte che se volessimo fare proprio un confronto sul merito della legge rispetto alle parole utilizzate, leggendo l'articolo 2, il comma 2, potremmo vedere che c'è proprio scritto esclusione degli spazi esterni al locale dove si svolge l'attività artigianale rispetto al consumo. Poi c'è una virgola, c'è scritto tramite l'utilizzo degli arredi. Insomma, mi pare una legge o pasticciata o discriminatoria. I casi sono due, non credo che ci sia una terza via. In un empito polemico avete detto che è scritta col ketchup, ma Belotti avrà modo di contestare naturalmente. Questa ne abbiamo dette tante, questa non è mia ma mi piace, devo dire. Ho visto anche che su Facebook è nato il Couscous Clan come strumento, sì, Couscous Clan, sì, di tutela del cibo. Vabbè, Maiorino, ma allora qual è il problema? Qual è il problema? La legge è discriminatoria proprio per le ragioni a cui facevo riferimento, perché comunque dà un segnale nettissimo di ostilità verso il kebab e poi coinvolge per la tipologia commerciale identica anche i consumatori di gelato e di pizza, il che genera una situazione paradossale e surreale. La questione però alla radice secondo me è quella sollevata dal ministro Zaia, che tra l'altro dagli esponenti della Lega, magari non stamattina ma nelle loro trasmissioni radiofoniche su Radio Padania, è stata rivendicata in questi giorni, cioè il tema della difesa del cibo locale, nazionale o nordico, non lo so, secondo le declinazioni, rispetto a questa ondata di cibo arabo. Un ascoltatore già faceva riferimento giustamente a una stortura che si potrebbe introdurre, perché potremmo essere penalizzati paradossalmente proprio noi in relazione ai nostri prodotti nel mondo. Ma poi ricordo anche che dal punto di vista storico perfino il piatto tipico milanese, il risotto giallo allo zafferano, deve tanto alla cultura orientale, quindi siamo veramente di fronte a una bizzarria. Altra cosa è dire prima abbiamo parlato col ministro dell'uva sultanina. Senta, Maiorino, cioè, sentiamo un attimo Stefano da Genova, finisco con una cosa, sì. Altra cosa è dire che ci vuole più controlli rispetto all'igiene, alle norme. Io sono d'accordissimo su questo, facciamo tutti i controlli possibili, cioè non è il punto, non è tanto non regolare o regolamentare. Sì, poi esaminiamo questo aspetto che è serio, perché per la verità non si può consumare birra a Barcellona, per strada, a New York, cioè tutte le città hanno le loro fissazioni sul terreno dell'igiene, della sicurezza, dei comportamenti sociali, del come tenere, diciamo, il decoro urbano, del come tenere compatta, coesa, diciamo, compatto, coeso il tessuto della città. Stefano da Genova però ha tutto un altro parere, dice che stiamo parlando di stupidaggini, ho il sospetto sì, che non abbia torto. Io penso Stefano, che proprio, cioè, sia tutta la classica strumentalizzazione che fa la Lega di una legge per cercare di andare a bloccare i kebab, perché io la trovo una cosa assurda. Innanzitutto i più grossi consumatori dei kebab sono i giovani, noi cinquantenni ci possiamo andare una volta, ma i ragazzi adesso stanno entrando nella mentalità. Anzi, io trovo che sia una forma anche, tutto sommato, importante di integrazione. I miei figli vanno, sono diventati amici anche col gestore di questo kebab, che è un'onesta persona, un immigrato che si è messo su un'attività, paga le tasse, dà da mangiare ai ragazzi, e trovo che sia anche una forma di integrazione, come è successo anche per la pizza. Quanto dobbiamo noi alla pizza in giro per il mondo? Quanti pizzaioli, quante pizzerie? Quanto è servito questo? Tanto il futuro sarà purtroppo di integrazione, non purtroppo, sarà di integrazione. Per cui purtroppo non era male quell'avverbio. No, eh? Dico, in un discorso come il suo, che è un discorso molto aperto, no, lei è scappato questo punto. Nel senso, no, è stato noi dobbiamo molto alla pizza, ma lei sa questa curiosità, non la sa quasi nessuno, per questo mi diverte dirla alla radio. Lo sa che il 60-70% degli americani, dei bambini americani, dei giovani americani, cioè che sono nati con Pizza Hut, con pensano che la pizza sia un'invenzione americana, non sanno che la pizza è napoletana. Però voglio dire, purtroppo non era assolutamente... Arriverà un giorno in cui i nostri ragazzi penseranno che il kebab è una celebre carne all'italiana. No, però voglio dire... prescindere che quella verba non era quella assolutamente come volevo dire, io trovo che siamo proprio retrogradi in queste cose qua. I giovani, fate parlare i giovani su queste cose, non parliamone sempre noi, che sono i veri, i reali consumatori nei club, vanno. E poi anche quell'altra cosa che diventa, io vivo a Genova, non è assolutamente vero che ci sono attaccati gente call center, le spezie, sono tutte queste strumentalizzazioni per andare a tirare fuori un problema. Anzi, lancio una provocazione: se il kebab funziona, gli italiani si organizzino anche loro, è una prospettiva, facciano un kebab più buono fatto con le carni italiane, avranno successo. Per cui non è una prospettiva assolutamente, okay? Va bene, ho capito Stefano, grazie. Belotti, lei avrà qualcosa da rispondere a tanta sì, apertura? No, innanzitutto vedo che Maiorino non ha ribattuto alla questione del divieto del panino, del cono gelato, perché è questo che ha fatto scatenare tutto, e lo ripeto per l'ennesima volta, è un'invenzione assoluta. Noi invece abbiamo introdotto, e questo è il punto che ha fatto diventare, ha fatto definire questo provvedimento anti-kebab, abbiamo introdotto un limite di orario, perché i laboratori artigianali in Regione Lombardia, l'una di notte, sì, fino a ieri potevano restare aperti 24 ore su 24. Noi abbiamo introdotto un limite per due motivi. Uno, per una questione di concorrenza leale nei confronti dei bar e delle pizzerie. Il bar deve chiudere alle 2 di notte, il kebab a fianco, che svolge la stessa attività di somministrazione di cibi e bevande, poteva andare avanti fino senza limiti. E l'altro motivo importante è quello di una questione di quiete e ordine pubblico. Noi abbiamo ricevuto centinaia, migliaia di sì, segnalazioni. Senta cosa dice Laura da Milano. Laura. Sì, pronto? Sì. Buongiorno. Ascolti, io volevo far notare alle persone che sono contrarie a questo provvedimento che io abito sopra un'italianissima pizzeria al trancio. Tutte le estati, tutte le domeniche mattine alle 5 e mezza, vengo svegliata dai ragazzi che tornano dalla discoteca, si fermano a comprare la pizza in una serata memorabile, addirittura lasciando la musica a tutto volume e la macchina accesa. Io non ce l'ho con i proprietari, che sono persone meravigliose, non so neanche se italiani o egiziani, forse un italiano e un egiziano, ma la gente che si ferma fuori con la musica accesa a tutto volume mi sveglia. Io ho una bambina di 2 anni che tutte le domeniche mattine alle 5 viene svegliata dalla musica a tutto volume. Io vorrei sapere se la gente ci pensa. È una bella molestia. Grazie Laura. Alessandro dalla provincia di Lucca, sempre con Belotti al microfono. Sì, buongiorno dottor Ferrara. L'ascoltiamo. Senta, io volevo portare la mia testimonianza. Siccome ho fatto per un anno circa rappresentato una grossa azienda alimentare esclusivamente italiana che produce polli, forse avrà capito quale, se vuole glielo dico anche. No, sennò non poi magari interessa, sono... infatti non importa. E noi in listino avevamo anche un italianissimo kebab da vendere a, al dettagliante, se era interessato. Tra l'altro, fra questo, la cosa interessante, davano anche in comodato d'uso il grill e tutta l'attrezzatura per cuocerlo. Quindi non penso che sia solo... Quindi lei dice ormai c'è un'integrazione anche nella produzione, sì, c'è anzi, il kebab all'italiano. Ormai c'è un business che forse l'hanno sentiamo, capito. Sentiamo, anche... grazie Alessandro. Sentiamo Sciugri da Milano. Sciugri? Sì, buongiorno. Buongiorno, lei ha 3 gelaterie e un negozio di kebab a Milano. Sì, io... un imprenditore, esatto, di successo. Così. Ci dica. Vuole allora, spiegare alcune cose? Ci dica. Allora, io sono stato diciamo la prima a fare kebab a Milano e non c'ero un turco, ero un commercio normale come tanti altri, come l'ho stato tanti anni. E poi dopo mi sono diciamo messo a fare gelatteria con un signor toscano che mi ha insegnato a fare il gelato e piano piano ho aperto più negozi di gelatteria qui a Milano. In quale alcune delle attività ho autorizzazione con i spazi fuori dove gente può mangiare e qual è la cosa che ci vuole dire? La cosa che a me stupisce è questo: di prima di tutto con queste crisi che c'è andare a creare dei problemi, attività che non vengono aiutate da nessuno governo, piccolissime imprese. Sì, lei dice c'è la crisi, sono piccole attività che fanno crisi, prodotto interno lordo. Non fanno nulla di problematico. Io non sono né italiana né turca, non ho cultura né gelato né couscous né kebab, però l'ho imparato tutte e tre a Milano e oggi italiani non sono informati. Guardate che il kebab adesso lo fanno società grosse italiane, è il primo fast food italianissimo che è spizzico. Oggi vende il kebab, vuol dire che il kebab è importante, perché cioè, bisogna guardare le regole, ma non bisogna creare e strumentalizzare. Non creare problemi, regolamentare ma non creare problemi. Grazie Sciugri. 800 24 00 24, la guerra del kebab. Maiorino, capogruppo del PD al Comune di Milano: vogliamo dichiararla chiusa questa guerra, viste le precisazioni di Belotti, viste le telefonate dei cittadini che dicono ma insomma noi non vogliamo disturbi della quiete pubblica alle 5 del mattino, insomma c'è questo problema dei laboratori artigianali 24 ore su 24, è una semplice regolamentazione, nessuno ce l'ha col kebab, anche se naturalmente i leghisti preferiscono la polenta. Vogliamo chiuderla, era finta, abbiamo dimostrato con questa trasmissione che sono chiacchiere oppure no? Ma no, perché anche la precisazione di Belotti prima non, purtroppo non cambia quello che c'è scritto nella legge, visto che, ripeto, per il consumo immediato nei locali adiacenti a quelli di produzione c'è una, diciamo, una possibilità di consumo, ma si fa riferimento esplicito all'esclusione degli spazi esterni al locale dove si svolge l'attività artigianale. Quindi evidentemente, poi in una formulazione molto bizzarra, molto complessa, però un sindaco imbecille che vuole multare i consumatori di gelato di fronte alla gelateria, se recepisce male questa legge, secondo me può farlo, e non solo secondo me, visto che ho visto pronunciamenti di organizzazioni di consumatori. Beh, di un sindaco imbecille, insomma, può fare molte cose, un fronte ampio, però un sindaco imbecille può fare molti danni, bisognerebbe non dargli delle idee. Belotti, cosa la dice lei? State favorendo i sindaci imbecilli? A parte i sindaci imbecilli, riguardo agli orari, fra l'altro, noi abbiamo preso spunto, sa da chi? Dal sindaco del PD di Cremona, che è stato il primo a emettere un'ordinanza per limitare gli orari dei kebab o degli altri laboratori artigianali fino alle 2 di notte. Ho capito. Però solo un dubbio che in risposta a quanto ha detto adesso Maiorino. Sì. Ma se fosse come dicono quelli del centro-sinistra, che c'è sto divieto di consumare il cono gelato, il kebab fuori dall'esercizio, i più arrabbiati chi dovrebbero essere? I gelatai o i pizzaioli o i kebabari, perché si troverebbero la clientela impaurita. Invece non gliene importa niente a loro, è tutta una battaglia ideologica. Noi abbiamo prese di posizione pubbliche sui giornali della Confartigianato, sì, che dice, virgolette, è una legge giusta. Mm. Ma allora, se i diretti rappresentanti di queste categorie così danneggiate... Ah, com'è complicata l'Italia. È una legge giusta, così allora sono masochisti? È complicata l'Italia. Davide da Milano intanto contesta Panella, e quindi siccome abbiamo Panella al telefono dobbiamo sentire Davide. Davide. Buongiorno dottor Ferrara, io sono Davide, ho 33 anni e vivo proprio all'isola. Le posso dire che qualora sorge il kebab, io le sto parlando poi dell'isola, non è mica vero che poi la zona viene infestata da mujahideen o comunque da comunità che creano fastidio o comunque arrecano danno alla cittadinanza, anzi creano business in quanto creano soldi. Io sono un giovane, ho 33 anni e in questo momento di crisi penso che un panino, una Coca-Cola a 5 euro rispetto a un ristorante o un McDonald's dove comunque spendi molto di più, benvengono queste attività. E poi volevo anche dire che di fronte, proprio in via Bolsieri, c'è una gelateria, vicino c'è una scuola. Alle 16 tutti i bambini sono lì col gelatin, che se lo mangiano. Come fanno a star tutti dentro la gelateria senza passeggiare, visto che hanno anche riqualificato la zona? Panella, come si fa che lei ci dice che nascono i ghetti intorno alla filiera del kebab e invece Davide da Milano ci dice lì il gelatin? Nella sua strada, lì all'isola non c'è il ghetto, ma ripeto, vada a Genova, in via Cannetellungo, dico a Stefano di Genova, o in via Pre, andate a San Salvario, andate a Brescia, andate a... Via Pre è sempre stato un ghetto. Ma andate anche a Barriera, andate a Barriera di Milano, di Torino, e vedete quello che motiva la Lega, che non sono tutti questi discorsi ipocriti un pochino che dice adesso Bellotti sulla igiene eccetera, e quello che motiva la Lega è un diffuso malessere che c'è in tutto il nord Italia ma anche nel centro Italia, perché gli immigrati non sono affatto collocati per colpa degli amministratori italiani e dei politici italiani in maniera seria e programmata nel territorio, ma vanno a finire a costituire ovunque dei ghetti cui loro stanno male, però costituiscono delle comunità chiuse al loro interno, e i riflessi sulle comunità italiane, soprattutto nei centri storici, quindi con abitanti che stanno lì da decenni e da secoli, sono molto forti politicamente. La Lega, grazie a questo favore che gli sta facendo la sinistra, parlando di kebab in una maniera che sembra alla Ionesco stamattina. Sì, no, assolutamente. Beh, una cosa poi non si capiva se c'era l'oggetto voti del contendere. La Lega fa voti, ma l'oggetto del contendere è che anche sulla movida, come diceva giustamente la signora, che non c'entra niente col kebab, no, anche sulla movida c'è stata una concezione, un governo delle città da parte soprattutto della sinistra, no, in cui vedeva nella movida la libertà e via dicendo, che ha creato un fortissimo disagio sociale, tutto lì. Smettiamo per favore di parlare di kebab, parliamo di come gli immigrati devono vivere nelle nostre città e di come soprattutto si disgregano questi veri e propri ghetti urbani che sono sorti dappertutto nell'Italia del Nord. Va bene, grazie Panella, buon viaggio, grazie a Belotti, consigliere regionale della Lega Nord e promotore di questo provvedimento amministrativo, un po' contro il kebab, un po' no, insomma, lui si è spiegato a modo suo e anche si è spiegato a modo suo Pierfrancesco Maiorino, lo ringraziamo per questo, capogruppo del PD al Comune di Milano. Ringraziamo gli ascoltatori, in redazione Franca Fossati e Gloria Guerrera, in regia Alessandro Chiappini e Giorgio Mattei. Linea al GR e poi a Gianluca Nicoletti con Melo 2.0. A lunedì, baci.